Europa 24. Sono le 14:02 minuti, un saluto da Gigi Donnelli. Oggi si parla soprattutto di Frontex. Frontex, come sapete, è ormai, insomma, per chi ascolta i nostri programmi, un termine, un nome che è emerso nel corso degli ultimi anni, un'agenzia appunto dell'Unione Europea con sede a Varsavia. Un tempo era davvero una parte marginale di un meccanismo di controllo, venne creata infatti addirittura alla fine degli anni 90, ma ora diventa importante con l'esplosione, ora da qualche anno, appunto della crisi migratoria. Oggi il capo di Frontex, il signor Legeri, un francese, Fabrice Legeri, di chiara origine italiana si direbbe. Fabrice Legeri era a Roma per incontrare la stampa estera, a Roma per incontrare la Commissione europea negli uffici italiani. Insomma, perché è interessante la notizia? Legeri, da questo punto di vista, sostiene in pieno, sottoscrive quelle che sono le istanze proprio di queste ore del governo italiano, quando il governo attraverso Renzi dice: la nostra legge di bilancio è segnata e caratterizzata da questo importantissimo intervento che stiamo facendo nel Mediterraneo meridionale, quindi spendiamo molto di più di quello che faremmo se questa crisi non ci fosse, e questa crisi è una crisi collettiva che riguarda tutti quanti, anche i paesi dell'Unione Europea, cioè la gran maggior parte che non hanno frontiere meridionale. Allora, cominciamo da questo. Prima di sentire Legeri, un punto della nostra Alessandra Schepisi. L'Italia oggi è la nostra priorità, così il direttore esecutivo di Frontex, Fabrice Legeri, è arrivato oggi a Roma per presentare le nuove potenzialità dell'Agenzia Europea di Pattugliamento dei Confini Esterni dell'Unione Europea, lanciata ufficialmente il 6 ottobre in Bulgaria. Se il numero di migranti illegali sbarcati si è dimezzato nell'Unione rispetto allo scorso anno, ha detto, in Italia continua ad essere stabile, con flussi soprattutto dalla Libia. Ma il direttore di Frontex si è mostrato fiducioso sul cambio di passo che con questa nuova agenzia ci sarà nella gestione delle frontiere esterne. Innanzitutto potrà contare su maggiori risorse, si passa da un budget annuale di 100 milioni di euro a uno di 250 per il 2016, mentre tra il 2017 e il 2020 è previsto un incremento costante fino a 330. L'agenzia inoltre avrà un suo corpo speciale di 150 uomini, più competenze tra cui la valutazione di vulnerabilità, e cioè la possibilità di effettuare stress test annuali per valutare la capacità e la preparazione di ogni Stato, ma potrà anche raccogliere alle frontiere informazioni e dati utili da inviare a Europol, dando un contributo alla lotta al terrorismo e alla criminalità. Prossime tappe verso la piena operatività, ha spiegato Legeri. Il 7 dicembre diventerà attivo il pool di risposta rapida di almeno 1500 guardie di frontiera, il 7 gennaio il nucleo rimpatri, mentre tra gennaio e marzo verrà effettuata la prima valutazione della vulnerabilità delle frontiere. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. It is clear that Italy is in the first line. È chiaro che l'Italia è in prima linea per quanto riguarda la pressione migratoria. Se guardiamo i dati, il numero di migranti illegali si è dimezzato nell'Unione Europea rispetto allo scorso anno, e questo soprattutto perché sulle isole greche la situazione è molto migliorata grazie all'efficacia dell'accordo stretto tra Bruxelles ed Ankara. E se nel 2015 sbarcavano lì circa 2.000 migranti al giorno, ora ne arrivano circa 100, mentre in Italia ne sono arrivati 6.000 solo lo scorso fine settimana. Quindi l'Italia rimane in prima linea, ma ora l'Agenzia Europea per la Guardia Costiera e di Frontiera potrà dare più sostegno a Roma. L'Agenzia ha un nuovo mandato, più risorse, più competenze, oltre ad un corpo di 1500 guardie di frontiera che potrà essere impiegato a supporto delle diverse operazioni. Questo era Fabrice Legeri, naturalmente, e direi che con questo, di fatto, con questa voce di questa piccola puntata monografica è tutto. Adesso parliamo di sport e come sempre siete tutti convocati e noi ci risentiamo domani. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.